Quando si sa che la conoscenza è un'illusione, non provando attaccamento verso la realtà illusoria, la conoscenza priva di attaccamento splende dovunque. Non avendo alcuno scopo, è spontanea. Se si comprende così, sarà sempre così. Questa grande madre del senso assoluto è anche la base di tutto il samsara e il nirvana. Pure i Buddha dei tre tempi hanno proclamato la grande madre come base non creata e al di là della nascita. Poiché il Buddha non è costituito di aggregati, se si crede che non è nato, non c'è alcuno che possa porre come base ciò che non è nato, e quindi si elimina l'errore del credere in una base non creata. Poiché il non creato non è composto di aggregati, senza azione si percorre sicuramente il sentiero spirituale. Non creando nella mente il concetto di non dualismo, ci si libera dai demoni del mondo e le oscurità di ciò che si vuol conoscere vengono eliminate nella loro stessa condizione. Se non si considerano mentalmente la forma, la sensazione, la coscienza e gli altri aggregati, si potrà ottenere la liberazione dai tre universi senza mescolarsi al samsara. Se nulla viene creato nella mente, non sorgono le tracce e si perfezionano i diversi stadi del sentiero spirituale. La non costruzione mentale è il supremo sentiero spirituale. Così viene sicuramente detto secondo le parole del vittorioso. Se sorge la reale comprensione della non costruzione mentale, non è necessario bloccare il movimento mentale. Come un miraggio, esso si autolibera. In questo modo, la yogini, dalla profonda conoscenza, non ha bisogno di bloccare il comportamento rilassato. Ed inoltre, in qualsiasi modo si agisca, si percorre il sentiero spirituale. La non azione è il sentiero spirituale. La spiegazione che considera il non compiere come risultato. Ebbene, si è detto che i tre kaya sono il risultato. Secondo l'esposizione del significato relativo dei segni secondari, della perfezione e di tutto il resto, in realtà non esiste neanche un atomo.